la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo martedì 11 di luglio, 16:30, primi 30 secondi, in diretta da Milano. Vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta in podcast. Oscar Giannino vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it e il numero di telefono per intervenire 800 24 00 24. In particolare oggi, se siete dirigenti scolastici o insegnanti delle scuole superiori e nell'anno scolastico che è finito avete organizzato o avuto esperienza nel vostro istituto di alternanza scuola-lavoro, potenziata come vedremo tra pochissimo dalla riforma Buona Scuola, ci interesserebbe che chiamaste per dire ciò che ha funzionato, ciò che non ha funzionato, se ci siete riusciti, siete stati soddisfatti, o se non ci siete riusciti, il perché. La trasmissione nasce, come spessissimo, e lo sapete, da una segnalazione di uno dei nostri ospiti, cioè esattamente di un insegnante che presenterò tra pochissimo, di un istituto di istruzione superiore statale di Sesto Fiorentino, che ci ha voluto segnalare la buona esperienza. Ecco, e perché ho scelto questo? Non solo perché, come già avvenuto ieri per il Porto Franco di Trieste, ogni tanto bisogna, a vostra richiesta, anche equilibrare le tante critiche che faccio con segnalazioni di cose che funzionano e di buoni esempi da seguire per tentare di diffonderli, ma perché in effetti è capitato spessissimo, e molti avete scritto su questo, che io picchiassi sul fatto che una delle fondamentali cause dell'elevata disoccupazione giovanile, del fatto che i giovani arrivano all'inserimento tardi e male, tardi in senso anagrafico, male perché con rapporti di lavoro non continuativi sul mercato del lavoro italiano, dipende anche dal mismatch, dalla distanza, dalla forbice che c'è tra le competenze offerte dalla scuola pubblica, dall'università pubblica, dall'istruzione secondaria, terziaria e post-terziaria rispetto a ciò che il mercato del lavoro chiede. E tante volte ho insistito sul canale duale tedesco, che invece da sempre dà pari dignità al percorso, diciamo così, licei e a quello di istituti tecnici, professionali di tutti i tipi. Più dell'80% degli iscritti alle superiori in Germania è in questo secondo canale, quello tecnico professionale, e oltre il 40% di chi segue l'università, quindi canale terziario, è in università professionalizzanti, mentre da noi praticamente ne abbiamo più volte parlato, abbandonato e fatto decrescere il numero di iscritti negli istituti tecnici, e abbiamo una formazione universitaria non professionalizzante. Questo è il punto di fondo. L'alternanza scuola-lavoro è stata potenziata, come dicevo, nella riforma Buona Scuola, e quando dico potenziata significa che con la legge 107 per chi frequenta gli ultimi 3 anni delle scuole superiori è stato innalzato il totale delle ore destinate all'alternanza scuola-lavoro, e quindi abbiamo 400 ore in 3 anni per gli studenti degli istituti tecnici e professionali, 200 ore per chi frequenta i licei. Però ci sono dei però, nel senso che il promesso registro nazionale delle imprese con cui interfacciare i singoli istituti non è nato, i dirigenti scolastici e gli insegnanti si trovano quindi nelle condizioni di dover, tra virgolette, sperimentare, allacciare rapporti con le imprese a propria volta si fanno vive. Confindustria ha appena annunciato, ne abbiamo parlato a Radio 24 la settimana scorsa, un'iniziativa che è un'iniziativa di bollino blu nazionale per le imprese del sistema Confindustria che si propongono agli istituti in Italia per realizzare queste esperienze di alternanza scuola-lavoro. Al contempo i sindacati della scuola molto hanno protestato, soprattutto la CGIL, dicendo questo modello di sperimentazione non funziona perché la centralità dei ragazzi non c'è. Molto spesso le esperienze che è possibile realizzare non hanno a che vedere con i curricula della formazione dei ragazzi. Ci sono state anche segnalazioni di abusi, cioè di ragazzi finiti in imprese a fare tutt'altro e magari anche senza troppo rispetto per i diritti, molte polemiche sui giornali. A maggior ragione, quindi, il problema è, oltre allo scetticismo e alle difficoltà concrete, tentare di capire invece dove funziona, perché funziona, per spiegarlo e augurarsi che l'esperienza di chi l'ha realizzato con successo possa espandersi, per così dire, all'interno del sistema della formazione pubblica. Naturalmente l'alternanza scuola-lavoro non è abilitata, non è lo strumento per sostituire, che ne so, gli ITS, gli studi tecnici superiori, che bisogna espandere molto. Pensate che ci sono solo 8.000 iscritti in Italia, la speranza è quella di incrementarli a 24.000 il prossimo anno scolastico, e già appare un obiettivo molto difficile, stiamo parlando di numeri molto molto piccoli, come vedete. Pur tuttavia è meglio di niente, e consente quindi, al patto di rispettare alcune condizioni precise da parte di chi li organizza, da parte di chi valuta le imprese, decide con un certo tipo di imprese che questa esperienza si può fare, avendo in mente qual è la formazione dei ragazzi e cosa può servire ai ragazzi, di tentare almeno di fare qualche passo sul ponte che oggi purtroppo manca, di collegamento tra la formazione pubblica scolastica e quella invece che serve di richiesta per le imprese. Allora, proprio per questo abbiamo oggi due ospiti, il primo dei quali, e lo ringrazio molto di essersi reso disponibile, è Giuseppe Ragazzoni, appunto, che insegna economia aziendale all'Istituto di Istruzione Superiore Statale Piero Calamandrei di Sesto Fiorentino. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, grazie di averci scritto. Buon pomeriggio a lei e a tutti i suoi radioascoltatori. E abbiamo poi come interfaccia, perché questa è un'esperienza che si realizza a due, quindi da una parte gli istituti, dall'altra un'impresa, Federica Papi, che è un'imprenditrice, che ha ospitato gli studenti in alternanza scuola-lavoro presso l'azienda CAP Viaggi. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Papi. Buonasera a tutti. Allora, professor Ragazzoni, innanzitutto, qualunque cosa vi abbia detto all'inizio le voglia correggere, ovviamente mi fa solo felice. Oltre a questo, spiega come è nata l'idea, quando avete iniziato la prima volta, come vi siete mossi per selezionare le imprese, che tipo di approccio e interesse avete riscontrato e come, che cosa avevate in mente di chiedere? Allora, noi come istituto tecnico facciamo la scuola lavoro da molti molti anni e abbiamo un ottimo rapporto con le aziende, quindi diciamo la preoccupazione che può avere il governo dall'alto dicendo ma come faranno queste scuole, per noi è normale e il rapporto è veramente buono e di collaborazione, quindi già questo mi sembra una nota positiva. E poi la scuola lavoro è stata resa obbligatoria, questo è un secondo punto fondamentale, perché non si può lasciare diciamo troppo all'autonomia dei soggetti, la scuola, alternanza scuola lavoro è fondamentale. Dopodiché si tratta di farla nel modo migliore, più efficace, e non è che poi ci vogliono per forza tanti soldi o tanti finanziamenti, sono più forse le idee. E nello specifico direi che scuola-lavoro e diciamo le nuove tecnologie che rendono la realtà più virtuale avvicinano molto di più la scuola al mondo del lavoro e viceversa, perché è tutto lì il punto. La motivazione degli studenti viene dal fatto che loro possono vivere situazioni reali e interagire sia con le materie, con le varie materie, con le aziende. Nello specifico, tutto è nato perché quest'anno, l'anno scolastico che ormai si è concluso, a scuola nostra è stato vinto un bando di concorso della Regione Toscana per un'attività didattica, un programma di approfondimento sul turismo. Quindi l'avete vinto come istituto Calamandrei? Sì, diciamo sì. L'abbiamo vinto, sono questi finanziamenti. All'interno di questo progetto per l'indirizzo turistico si tratta di ragazzi di terza, quindi sono ragazzi ancora a metà percorso, è stato proposto questo: volete fare un'ora aggiuntiva settimanale? Loro normalmente fanno 32 ore. Un'ora in più per cosa? Per approfondire un'ora alla settimana questo software gestionale della Zucchetti Sistema, che è stato acquistato dalla scuola. È un software che si chiama eAgency, serve per gestire agenzie di viaggio, tour organizer, tour operator. Bene, volete voi ragazzi un'ora in più alla settimana, un'ora in più alla settimana con il vostro insegnante, fare un lavoro di approfondimento con tante risorse didattiche e poi, quindi con esercitazioni, prove esperte, in laboratorio, simulando la realtà. E poi, a fine anno, volete fare uno stage andando dove? In quelle aziende che usano quel software. E quindi, ecco il terzo soggetto, Cioè, il primo sarebbe la scuola e i ragazzi, il secondo è sicuramente la Zucchetti Sistema, che si è resa disponibile nel darci un elenco di loro clienti, aziende che usano questo software, e questo ha permesso a noi di contattare le aziende, tra cui la Cap Viaggi, che ne ha accolti ben, mi sembra, 6 se non sbaglio, 4 a Firenze e 2 a Prato. E quindi abbiamo contattato diverse aziende che in tutto ci hanno accolto quasi la totalità delle due classi, sono due classi terze, e ormai stiamo raccogliendo i risultati di questa esperienza, che posso anche, diciamo, illustrare meglio. Però scusi un secondo, il vostro istituto, naturalmente, probabilmente perché è ben gestito, avete utilizzato bene i fondi eccetera eccetera, aveva già tutta la dotazione di laboratorio di informatica, certo, di macchina, non avevate bisogno di nulla tranne il software gestionale. Noi abbiamo comprato il software gestionale già un paio d'anni fa, perché abbiamo questo indirizzo turistico e vogliamo dargli qualcosa in più che non sia la lezione tradizionale, no? Quindi i laboratori vengono sfruttati, ma a questo punto ancora meglio, quindi il software che si usa in questa, si ricordi che comunque per la Toscana il turismo certo, è un'attività di una certa, e Firenze poi insomma è un po' mondiale, non bisogna neanche dire. Non è che non è stagionale come turismo, no. Firenze più o meno, salve piccole differenze, c'è sempre pieno di turismo. E i ragazzi, bisogna dire che, e le famiglie, hanno detto sì, senza tante storie, glielo dico sinceramente, hanno detto assolutamente sì. Un po' perché chiaramente c'è il fatto dell'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro, che comunque uno all'esame di quinta si deve presentare col pacchetto fatto. Certo. E quindi diciamo c'è quindi un pochino di forzatura fatta a fin di bene, non ci sta male. E io credo che i ragazzi e le famiglie siano state... Insomma, non tutti sono disposti a fare un'ora in più di questi tempi, l'hanno capito che erano opportunità. Le aziende, a cominciare da Cap Viaggi, in effetti, da quello che io ho già, dalla piattaforma, noi abbiamo una piattaforma... Ecco, una domanda che prego. Alcuni critici ci hanno fatto, sì. Alcuni critici in cui queste esperienze hanno avuto problemi nella loro realizzazione, perché ci hanno scritto sia dalla Calabria che dalla Campania nelle settimane scorse. Nella scelta che fa l'istituto dell'azienda con cui realizzare poi, presso la quale realizzare lo stage una volta acquisite le competenze. La scelta come viene fatta? Come è stata fatta da parte vostra? Beh, nel caso specifico è stata, diciamo, automatica. Noi volevamo fargli concludere l'anno scolastico e l'attività di laboratorio portandoli in aziende che usavano proprio quel software, e ripeto, appunto, la Zucchetti Sistema, che è la società di software del gruppo Zucchetti, è stata molto gentile nel fornirci un elenco di aziende del circondario territoriali che avevano il prodotto, il software. Le aziende contattate a sua volta, senza bisogno di nessuna spinta o da Confindustria o da qualcun altro, si sono dimostrate per l'80% molto disponibili. E questi stage, alcuni sono conclusi, alcuni sono in corso, ma ho già delle risposte. Altra domanda, mi scusi, lei deve partire dal presupposto di chi è curioso e non sa i particolari, poiché l'esperienza l'anno prossimo si prevede che riguardi per esempio 1,5 milioni di studenti in Italia. Quando si realizza lo stage nell'azienda, che cosa c'è? C'è un tutor che vigila? Come funziona per tutti coloro che hanno paura rispetto al fatto che l'utilizzo sia improprio da parte dei giovani nelle aziende? Come funziona? Beh, allora, diciamo che nel nostro territorio le aziende sono disponibili e diciamo piuttosto serie su questo profilo, quindi noi direi massima, vabbè, ci possono essere aziende che sono più sensibili allo stage, alcune meno, però in linea di massima non ci sono grossi problemi. E quindi diciamo noi le aziende le contattiamo in generale, ora lasciamo perdere lo stage di cui stiamo parlando, perché la scuola nostra quest'anno ha organizzato quasi 500 stage, di cui la metà in Italia e metà all'estero, perché ormai noi abbiamo anche un indirizzo linguistico, ottimo, un indirizzo turistico in cui le lingue sono molto importanti. Gli stage ormai non si fanno solo in Italia, si fanno all'estero. Certo. E questo è molto interessante, perché si perde un po' quella provincialità. Cioè, quindi voi avete un'esperienza ormai consolidata, pluriennale, quindi in questo insomma, diciamo, avete affinato. Ecco, quindi noi poi da un punto di vista organizzativo all'interno della scuola abbiamo Gli stage, quelli più lunghi, dove c'è una commissione che effettivamente ci deve lavorare partendo presto, diciamo da settembre, per trovare le aziende, molte delle quali noi le abbiamo già un repertorio, un archivio di aziende che ci conosce, che magari cerchiamo sempre di sviluppare, di migliorare. Se c'è dei problemi magari sostituiamo, insomma un lavoro raffinato che... Quindi voi avete fatto in proprio un archivio territoriale, certo, in attesa che venga l'archivio delle imprese iscritte, diciamo, nazionali. Egoisticamente noi ci fa un po' paura il fatto che si debbano... capisco bene. Voglio dire altro, però ci siamo capiti, insomma. Sì, perché, perché organizzare dal anni, basso anni territorialmente, esattamente, il giorno che vi viene una specie di albo nazionale, magari l'esperienza consolidata di significativa sinergia poi deve abdicare di fronte a principi burocratici di altro tipo. Ci siamo capiti, senza che aggiungiamo parole da questo punto di vista. Allora, fino a questo momento vi abbiamo spiegato, cari ascoltatori, come si fa. Adesso, dopo un minuto di traffico, andiamo con Federica Papi, imprenditrice, e sentiamo da parte dell'impresa qual è l'approccio, qual è l'esperienza accumulata, l'interesse a continuare, cosa si potrebbe anche cambiare in meglio ancora, tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, stiamo parlando di alternanza scuola-lavoro, 400 ore obbligatorie per gli studenti dell'Istituto Tecnico negli ultimi 3 anni, 200 per i licei con la buona scuola. Il professor Giuseppe Ragazzoni dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale Piero Calamandrei di Sesto Fiorentino ci ha spiegato come nel settore del turismo, come sono partiti, quindi il software gestionale reso disponibile dalla Zucchetti, acquisito dalla Zucchetti, un'ora alla settimana con i ragazzi per capire come funziona. Il contatto diretto con chi usa quel software gestionale nelle agenzie, ci ha spiegato un po' di garanzie, come funziona, come si è evoluta nel tempo un'esperienza territoriale che ormai fa 500 stage l'anno tra italiani e all'estero, quindi positiva. E Federica Papi, l'imprenditrice che appunto poi ha deciso e ospita gli stage, qual è l'approccio? È la prima volta? Quali sono le impressioni? Cosa potrebbe migliorare ancora secondo lei? Buonasera a tutti. È stata effettivamente una bella esperienza per noi. Diciamo che noi eravamo un po' alle prime esperienze, perché diciamo che il tirocinio che i ragazzi delle superiori fanno da noi, io ne ho avuti tanti anche nel passato, ma se probabilmente non sono dovutamente motivati, diciamo che questi tirocini, tutta questa grande utilità secondo me non ne hanno. Ero un po' reticente ad ospitare questo ulteriore tirocinio. Poi, dopo questa chiacchierata con il professor Ragazzoni, dove ho sentito che si parlava di cose molto vicine a quello che è il nostro lavoro. Ho sentito parlare del gestionario con cui noi lavoriamo praticamente da qualche anno. È un gestionale, tra l'altro, non semplicissimo da usare, per cui diciamo parlare di questo progetto mi ha incuriosita, perché ho detto, questi ragazzi, che tra l'altro sono ragazzi giovani, non sono ragazzi, certo, sono il terzo anno. Infatti sono ragazzi di 17 anni. Ho detto proviamo, diamo un'altra possibilità e riproviamo. Devo dire che è stata una esperienza positiva, molto, una piacevole sorpresa, perché questi ragazzi particolarmente motivati, forse per il fatto che comunque lo aveva già fatto la scuola prima e il professore in prima persona, per cui sono arrivati questi ragazzi che al di là dell'inesperienza dell'età, avevano una conoscenza di base, la conoscenza del gestionale, per cui in un periodo, tra l'altro sono stati inseriti in un periodo d'altissima stagione, certo. Perché sono venuti da noi a giugno, noi siamo un tour operator, per cui è l'inizio dell'altissima stagione per noi. E dopo una giornata questi ragazzi erano in grado di controllare le disponibilità e dare disponibilità, rispondere alle telefonate, diciamo così, per gestire le prenotazioni, almeno dire se c'era posto o no in un particolare viaggio. Questi ragazzi si sono dimostrati molto più, anche almeno quelli che abbiamo avuto noi, perché poi dipende molto dal carattere. Certo, dal carattere, dagli individui. Sì, però si sono buttati, forse l'incoscienza dell'età, però mi sono piaciuti veramente tanto, ho rivisto un po' quell'entusiasmo che da tanto tempo veramente non vedevo. È stata per noi un'esperienza positiva. Quindi da rifare, non c'è dubbio. Io credo che chi diffida del fatto, no, la scuola, le aziende, io la vedo un po' al contrario, cioè l'acquisizione diretta in età molto giovanile abbatte i tempi dell'occupabilità, cioè poi per migliorare c'è sempre tempo, ma qui stiamo parlando di acquisire i fondamentali per cominciare, perché altrimenti, cari ascoltatori, come detto mille volte, le aziende si scelgono quelli ma sulla base del fatto che bisogna formarli da zero. Questo errore dipende da una maniera di concepire la scuola che secondo me è sbagliata, e tutti coloro che come professor Ragazzoni si danno a fare, che sono migliaia e migliaia ovviamente, lavorano perché hanno questo bagaglio di esperienza oltre che di passione consolidata. Più li avviciniamo le due sponde, più l'occupabilità diventa non il problema tragico che è in questo paese, dove uno su quattro di coloro che hanno fino a 29 anni, uno su quattro non studia né lavora, sono i famosi NEET, il 24%, ed è una percentuale tragica. Sentiamo qualcuno di voi che ha telefonato. Elisabetta ci chiama, leggo dalla provincia di Cagliari. Elisabetta, prego. Buonasera. Buonasera. Sì, anch'io devo ripetere quasi pari pari quello che è stato detto dal collega Toscano. Mi occupo di alternanza scuola-lavoro già da alcuni anni, insegno in un istituto tecnico ed esattamente in un triennio di chimica e biotecnologie ambientali, e devo dire che anche per me l'esperienza è estremamente positiva e soprattutto lo è per i ragazzi. Le difficoltà. Noi in Sardegna sicuramente abbiamo maggiori difficoltà a trovare le aziende. Tessuto produttivo. Grazie ad un lavoro di contatti, prima per telefono, via email e poi sempre in persona. Anche perché la chimica sarda nei decenni purtroppo ha preso botta clamorosa, ma comunque insomma. Sì, lo so, però devo dire, ci sono tutta una serie di aziende che ancora lavora. Io al momento ho diversi ragazzi in attività di stage e sono tutti molto molto soddisfatti di quello che stanno facendo, e per quelli che hanno finito ugualmente sono soddisfatti di quello che hanno fatto. Il problema è che è un'attività quasi di volontariato, perché devo andare io di persona, faccio la visita dell'azienda, verifico e poi il contatto rimane continuo, quindi la scuola è finita ma io sono continuamente in contatto con i ragazzi. Ma a parte questo, io sono favorevolissima a questa esperienza perché è estremamente positiva. I ragazzi imparano tantissimo, a parte il fatto che i miei lavorano, cioè nel corso dei 3 anni fanno più esperienze anche differenziate, per cui quello che possono imparare con l'alternanza scuola-lavoro sicuramente in classe non lo imparano. È un lavoro al quale bisogna dedicarsi, questo sì, però l'esperienza è estremamente positiva. Anch'io mi sono fatta un elenco di aziende, nel tempo integro, sostituisco, è tutto un lavoro personale, però dà la soddisfazione. Scusate, c'è un ascoltatore che dice una marchetta alla Zucchetti. No, guardate, la Zucchetti c'ha il gestionale che hanno usato a Cagliari, ma perché avete in mente le marchette? Stiamo parlando dell'alternanza scuola-lavoro per sottolineare che in molte parti d'Italia hanno bisogno di sentire da dove va meglio, perché altrove ci sono problemi di risorse, di cose eccetera eccetera, e invece serve. Mi scuso che non torno dalla provincia di Pescara perché ahimè il tempo è finito. Invece grazie ai nostri ospiti, grazie quindi a Giuseppe Ragazzoni e a Federica Papi, e grazie a Elisabetta che ci ha chiamato dalla provincia di Cagliari. Non ci sono marchette, abbiate pazienza su ascoltatori.